Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buona giornata da Deborah Rosciani e bentrovati ad un nuovo appuntamento con Salva Danaio. Lunedì scorso il più grande gruppo assicurativo italiano, Generali, ha provveduto al riassetto del gruppo dando formalmente il via alla fusione per incorporazione della controllata Alleanza. Si tratta di un grande riassetto interno e non è il primo caso in questi anni in cui due grandi gruppi si fondono per creare un nuovo soggetto giuridico. Ci sono stati casi che hanno riguardato soprattutto il settore bancario, basti ricordare le grandi operazioni Unicredit Capital e Intesa San Paolo, però in questo caso, ecco, come abbiamo già specificato, si è trattato dell'unione di due banche differenti. Nel caso invece di Generali c'è un riassetto interno. Queste decisioni però, prese nelle stanze del potere, calano dall'alto sui risparmiatori, sui consumatori, che ne subiscono nel bene e nel male le conseguenze. Quali sono allora i vantaggi dell'operazione di cui parliamo oggi e gli svantaggi che ne possono derivare? Cosa può cambiare per un consumatore alla luce di questa operazione? Cosa cambia in pratica per la gente comune? Magari faremo un punto anche su quelle che le associazioni dei consumatori ritengono le problematiche aperte del settore assicurativo, prendendo spunto da questa operazione di riassetto che dovrebbe avere la sua efficacia dal 1 ottobre, ma sicuramente già qualche effetto abbastanza evidente, forte, si è visto in borsa. E allora da questo aspetto partiremo con Antonio Tognoli, che è responsabile della ricerca azionaria di Abax Bank e vicepresidente dell'AIAF, l'Associazione Italiana degli Analisti Finanziari. Invece, per il punto di vista dei consumatori, abbiamo con noi questa mattina Alessandro Pedone, responsabile ADUC per la tutela del risparmio, e Fabrizio Premuti, segretario nazionale della Diconsum e referente per questa grande associazione dei consumatori per le tematiche del settore assicurativo. Ovviamente, come sempre, ci piacerebbe sentire anche le vostre considerazioni su questo argomento. Ce le potete esprimere direttamente intervenendo in diretta all'800 24 00 24, oppure ci potete scrivere alle 349 238 6666. Giornata intensa in borsa, tra l'altro proprio i titoli di cui stiamo parlando questa mattina oggi sono in evidente rimbalzo dopo la debolezza che li ha investiti negli ultimi giorni. Alleanza più 2,38, Generali più 2,10%. Ci sono molte case di investimento che oggi stanno prendendo una posizione ed esprimendo dei giudizi su questi titoli, poi magari vi farò un punto della situazione. Oggi la regina della seduta a Milano è però Fiat, sta guadagnando il 4,75% in una seduta di borsa che era partita molto meglio rispetto a come sta andando adesso, perché c'è il segno più ancora in tutta Europa, ma in avvio c'era stato un rialzo di 1,5 punti che poi si era trasformato in un rialzo di oltre 2 punti sulle principali piazze. Adesso invece c'è un rallentamento abbastanza marcato: Parigi più 0,39, Francoforte più 0,6, Londra più 0,50%, Milano invece è la miglior piazza d'Europa, sta guadagnando 1 punto percentuale. Oltre a Fiat, i titoli che stanno registrando un bel guadagno sono Impregilo più 4,69, Telecom più 3,70, e poi abbiamo la rosa dei titoli bancari che oggi è piuttosto ampia e sta guadagnando anche bene: UbiBanca più 3,51, Intesa San Paolo più 3,36, Unicredit in rialzo del 3,50%, Banco Popolare più 2,67. Il mercato bancario, i titoli bancari sono spinti soprattutto dai chiarimenti che, grazie al decreto che è stato firmato ieri, sono arrivati relativamente alla possibilità che le banche hanno di ripatrimonializzarsi attraverso l'emissione dei famosi Tremonti Bond, che verranno sottoscritti dal Tesoro. È un'operazione abbastanza complicata che stamattina abbiamo spiegato anche a Soldi e dintorni, ma in ogni caso c'è questa prospettiva di rafforzare ulteriormente la propria solidità per le banche italiane. Su questa prospettiva il mercato sta riacquistando i titoli del settore. Segno meno invece sul comparto difensivo: Tenaris sta continuando a peggiorare la sua seduta, perde il 5,87% in questo momento. Segue anche il ribasso di Saipem, meno 2,51. Per Tenaris c'è un'evidente penalizzazione dei conti che sono stati pubblicati nelle ultime ore. A2A meno 1,96, c'è un ribasso di 1,5 punti per Atlantia, la ex Autostrade. Buzzi Unicem meno 0,9, Enel meno 0,9%. Abbiamo l'euro sul dollaro a 1,27,58. Questo è il quadro di borsa in questo momento, che tra l'altro è anche dominato dall'attenzione in realtà su due società europee, delle quali magari avremo modo di fare anche qualche considerazione leggere stamattina, Royal Bank of Scotland, che ha pubblicato i conti del 2008 con enormi perdite, come era noto, ma il titolo sta invece correndo a Londra e anche parecchio. Il titolo sta registrando appunto un rialzo adesso del 23%, il migliore però Lloyd's più 26%, mentre a Francoforte brinda sempre ai conti del 2008 Allianz più 7,88%, molto bene, ma anche i titoli bancari francesi. Quindi almeno oggi una buona giornata per questo comparto. Noi però non parliamo, anche se magari ci arriveremo, del comparto bancario, parliamo di quello assicurativo alla luce delle ultime novità che hanno interessato il panorama domestico negli ultimi giorni. .300.000 clienti, oltre 18.000 dipendenti e circa 2.000 punti vendita. Nasce così un nuovo gigante assicurativo dalla fusione per incorporazione delle controllate Alleanza e Toro in generale. Prosegue dunque l'opera di consolidamento nel settore finanziario assicurativo italiano, già ampiamente celebrato negli ultimi 3 anni con le operazioni Unicredit Capitalia, Intesa San Paolo e Popolare di Lodi con Verona Novara, tanto per citare le più importanti. In Italia il fenomeno si è verificato con un notevole ritardo rispetto al resto d'Europa. Solo negli anni 80 l'ondata di fusioni e acquisizioni che aveva già caratterizzato tutte le altre economie occidentali ha cominciato a manifestarsi anche nel nostro paese. Ma questi riassetti societari in che modo coinvolgono anche i piccoli risparmiatori? Quale significato e quale convenienza hanno, se ce l'hanno, per la gente comune? Da una parte come consumatori, dall'altra come azionisti, i risparmiatori possono essere interessati a vario titolo all'operazione. Nel caso specifico, dopo la fusione, i titoli Alleanza cesseranno di essere quotati sul mercato azionario e i possessori di azioni della compagnia assicurativa riceveranno titoli della nuova società in base al rapporto di concambio. 0,33 nuove azioni generali per ciascun titolo Alleanza posseduto. Rapporto che non sembra aver soddisfatto il mercato, considerato che entrambi i titoli delle compagnie hanno archiviato le sedute successive all'annuncio in territorio negativo. Sul fronte dell'offerta ai consumatori, invece, nella rete di Alleanza, finora specializzata unicamente nelle polizze vita, saranno collocati anche contratti dei rami danni, ad iniziare da quelli dell'RC Auto, in cui è specializzata Toro. A vigilare su fusioni e acquisizioni, al fine di controllare eventuali effetti anticompetitivi indotti dall'aumento della concentrazione, sono state introdotte anche nel nostro paese delle norme antitrust. La concorrenza sul mercato, insomma, non sembra essere minacciata. E magari proprio su questo chiederemo qualche considerazione in più alle nostre associazioni dei consumatori questa mattina. Io faccio un rapido giro di saluti ai nostri ospiti. Buongiorno e grazie di essere con noi ad Antonio Tognoli, vicepresidente dell'Associazione Italiana degli Analisti Finanziari, ma anche responsabile per la ricerca azionaria di Abax Bank. Benvenuto Tognoli. Grazie, buongiorno. Grazie anche a Fabrizio Premuti, segretario nazionale di Adiconsum e responsabile per questa associazione dei consumatori del settore assicurativo. Premuti, tra l'altro, a rischio oggi perché è impegnato anche nella registrazione di una trasmissione televisiva, ma ha voluto ugualmente essere con noi per il tempo che gli è concesso. Premuti, quanto la possiamo tenere ancora? Ancora abbiamo un po' qualche minuto. Benissimo. Alessandro Pedone, bentornato a Salva Danaio, responsabile ADUC per la tutela del risparmio. Buongiorno a voi e tutti i radioascoltatori. Buongiorno. Allora, cominciamo con Tognoli. Tra l'altro, vedo già scalpitare molti ascoltatori, non lo avrei mai creduto, invece evidentemente ci sono in circolazione molti piccoli azionisti dei titoli che abbiamo citato e si chiedono adesso che cosa succede. Allora, prima di attivare la nostra conversazione, la mia conversazione con Antonio Tognoli per capire un po' meglio gli aspetti di mercato di questa operazione, metto subito in campo gli ascoltatori. Maria Antonietta da Genova, benvenuta. Buongiorno signora Debo. Buongiorno. Le faccio i complimenti per la trasmissione che è molto seguita in questo momento, penso. E io sono una piccola risparmiatrice che volevo sapere appunto quale destino subirò con le mie azioni dell'Alleanza. Lei ha azioni Alleanza. E allora, Luigi dalla provincia di Pavia, anche per lei vale la stessa cosa? Sì. Non mi deve dire altro? No, le devo dire altro. Ho bisogno di chiarire alcuni dubbi. Mi dica. Che sono, innanzitutto, io seguo la borsa attraverso la televisione, il televideo. Sì. E facendo il rapporto fra la quotazione di Alleanza nello stesso momento che c'è la quotazione di Generali. Quindi per esempio adesso. E traducendo il 0,33% di azioni generali in azioni alleanza, noto che c'è una differenza di quotazioni che sinceramente nella mia ignoranza in materia non riesco a spiegarmi. Luigi, allora sentiamo se riesco anche ad interpretare un po' meglio la sua domanda con Antonio Tognoli. Tognoli, da che cosa partiamo? Io in realtà volevo partire da un'altra domanda, poi arriviamo anche a quello che ci hanno chiesto Maria Antonietta e Luigi. Un'operazione di questo tipo, c'è una crisi finanziaria enorme in corso e evidentemente tutte le società, piccole e grandi, sono chiamate ad affrontarli in qualche maniera. Questa operazione di riassetto interno tra Generali, Alleanza e Toro, perché anche Toro è coinvolta, è anche una risposta alla crisi o comunque era un'operazione nell'aria già da tempo? Perché è da un po' che in realtà se ne sente parlare. Sì, è da un po' che se ne sente parlare riguardo soprattutto Alleanza, direi addirittura 4-5 anni. Tra l'altro nel servizio che avete fatto in apertura avete detto chiaramente che insomma, le cose all'estero sono già avvenute, insomma, poi pian piano avvengono anche da noi. Per rispondere alla sua domanda, sicuramente voglio dire, la crisi tocca crisi finanziaria, quindi non tocca solo le banche, tocca in per certi versi e per altri aspetti anche le assicurazioni. Questa è una risposta direi forte a quello che sta succedendo. Perché è una risposta forte? Perché in realtà da questa integrazione di attività tra Alleanza, Toro e Generali, il nuovo gruppo conta di stimare, quindi stima risparmi di costi per 200 milioni di euro in 3 anni, che ovviamente non sono pochi. Questo vuol dire che colui il quale azionista Alleanza si vede assegnare 0,33 azioni di Generali potrà contare su un risparmio della nuova società relativamente a 200 milioni. Quindi benefici nel lungo periodo, esatto. Poi evidentemente che si rifletteranno anche sulle quotazioni per chi magari è spaventato anche dalla reazione di mercato che c'è stata in questi giorni. Questo è un po' come un'impresa industriale che dice io come faccio a risparmiare dei costi e far sì che il risparmio di costi evidentemente si veda nel maggior utile e quindi maggior dividendo. Questa è una risposta. È chiaro che poi il rapporto di concambio indipendentemente da un giorno prefissato, il rapporto di concambio a 0,33 è stato calcolato su una media degli ultimi 3 o 6 mesi, proprio per evitare che sia presa una giornata a riferimento e quella giornata sia la giornata peggiore, magari. Però è stata proprio presa una media. No? Io punterei come molto, tra l'altro viene sempre fatto quando si fanno operazioni comunque di questo tipo. Esattamente. Quindi c'è, voglio dire, un premio a favore degli azionisti Alleanza, evidentemente del 6-13% rispetto al cambio medio. È ovvio che poi si aprono i venditori e i compratori a seconda di quello che dice: io ci credo che risparmio 200 milioni e quindi compro, io no, non ci credo e quindi vendo, e lì si possono aprire spread, quindi 0,33 che può aumentare o diminuire in funzione di quelle che sono le aspettative di quel momento del mercato. Ma questo assolutamente non toglie valenza strategica al fatto che comunque in 2-3 anni saranno risparmiati 200 milioni. Quindi io mi aspetto maggior utile e quindi maggior dividendo. Queste sono le aspettative appunto degli operatori di mercato. Intanto però nel breve periodo c'è chi cerca di capire cosa succederà al proprio piccolo patrimonio azionario che ha in possesso. Tognoli, ci aiuti anche su questo. Allora, non è un'offerta pubblica di acquisto, per cui non è che la società che ne va ad acquisire un'altra ci chiama e ci dice: mi vuoi consegnare le tue azioni? Qui teoricamente a chi è già azionista per esempio di Alleanza non cambia niente, a breve troverà una nuova denominazione della sua società è un nuovo prezzo, a meno che non voglia, è possibile non voler sottostare ad un'operazione di questo tipo, in tal caso vanno vendute le azioni Alleanza. Come ci si deve comportare? Esattamente, se il possessore di azioni Alleanza non crede nell'operazione, quindi dice: no, io comunque ero azionista di una società che si chiama Alleanza, non voglio diventare azionista di un'altra società che si chiama Generali. Teniamo conto che Alleanza è controllata da Generali, di fatto cambia poco, cambia assolutamente nulla. Certo, rimane il fatto che uno può dire: no, io volevo e ho comprato Alleanza perché volevo solo la vita, cioè solo il comparto vita nel mio portafoglio, adesso mi danno un qualcosa che è anche il danni, quindi non lo voglio, e allora deve vendere le azioni Alleanza in portafoglio, perché vengono assegnate appunto 0,33 ogni un'azione, diciamo, dalla banca. Quindi la banca manderà una comunicazione alla al possessore di azioni dicendo: caro possessore, c'è questa operazione, quindi ti verranno assegnate in funzione delle azioni che tu hai, faccio il caso 1000, quindi 333 nuove azioni generali, punto. Se uno non vuole, deve chiaramente vendere i titoli alleanze in suo possesso. Rimane il fatto, evidentemente, sempre per come dire, cercare di spiegare la valenza economica dell'operazione, che è vero che io ero comunque azionista di una società che si chiama Alleanza, che ha in portafoglio unicamente la vita, ma divento azionista, intanto diversifico comunque il rischio, perché aumento il portafoglio anche a ramo danni, e ovviamente ci sono delle possibilità di vendita fra danni e vita. Che so, io che ho la polizza auto, sono contattato dalla nuova società per stipulare nuove polizze vita, aumentano i canali, qui sono 3 milioni di clienti. Ci arriviamo tra qualche istante a questi punti, Tognoli, che sono assolutamente interessanti. Allora, prima magari di completare anche la risposta per Luigi, che rilevava qualche incongruenza nel concambio secondo le quotazioni di borsa di questi giorni, vado invece a Fabrizio Premuti, prima che ci lasci. Un'operazione che, dicono gli analisti finanziari, sicuramente comporta sinergie, risparmi nel lungo periodo, più efficienza per quello che riguarda la casa madre che va ad eseguire tutta l'operazione. Sono un po' più in disaccordo le associazioni dei consumatori quando invece pensano a quello che potrà succedere sul territorio. Se in un paese c'erano due sportelli, uno di Generali ed uno di Alleanza, due sedi, due compagnie di assicurazione che noi sapevamo erano, come dire, appartenenti allo stesso grande gruppo, in realtà magari all'occhio del consumatore sono due compagnie diverse. Per voi che cosa succederà adesso? Ma è esattamente questo il problema effettivo. È evidente che ci sarà una razionalizzazione e quindi un risparmio nei costi generali, ma questi costi generali sicuramente, e l'abbiamo già vissuto con altri gruppi, mi riferisco ad Allianz per esempio, questo quando succederà, succederà a discapito del servizio e dell'efficienza rispetto al consumatore, quantomeno nell'immediato. Allianz, che ricordiamo ha fatto l'operazione con RAS. Esatto, e Lloyd Adriatico. E Lloyd, sì. Quindi Subalpina, RAS e Lloyd Adriatico. Non me le ricordavo tutte, mi ricordavo la più grande. Il problema in quel caso, potrebbe ripetersi in questo caso con Toro, è avere per esempio due linee differenti di tariffa sulla RC Auto. Parliamo un attimo di quella che è l'assicurazione di massa. Questo che significa? Che avremo un cliente di serie A e un cliente di serie B, una persona che pagherà una tariffa e un uomo che ne pagherà un'altra. Con la tentazione, magari, dice lei, di allineare tutto verso l'alto? Probabilmente nel lungo periodo questo sì, ma nell'immediato questo significa riservare trattamenti diversi a clienti dello stesso gruppo. E sta accadendo per esempio in Allianz questa cosa. Quindi il disservizio nel trovare intanto minori riferimenti rispetto al territorio, perché chiaramente la razionalizzazione porta a chiudere ed accorpare quello che oggi è distribuito in un certo modo. Questo, ma secondo lei è già noto oppure è una prospettiva che immaginiamo, che ipotizziamo? Ma guardi, è una prospettiva che immaginiamo, perché ovviamente abbiamo le catene distributive di Toro e le catene distributive Generali che hanno trattamenti estremamente diversi. E nessuno dei due, io credo, come catena distributiva, quindi come rete agenziale, vorrà rinunciare a quelli che ritiene essere i propri privilegi. Questo ha portato Allianz ad avere 3 catene distributive. Eticamente è totalmente sbagliato che nello stesso gruppo, quindi nella stessa compagnia, cosa che sarà per Generali domani, un cliente possa essere trattato in maniera differenziata dall'altro. Un consumatore debba pagare il dazio di essere assicurato con la compagnia A piuttosto che con la compagnia B. Potrebbe verificarsi però anche il contrario, Premuti, non lo ipotizziamo per niente? Ahimè. L'esperienza dice lei che non ha mai prodotto esempi di questo tipo. Parlavamo prima di concentrazione del mercato. Noi abbiamo già oggi il mercato delle assicurazioni in Italia che è in mano per l'80% a 4 gruppi. Qui tendenzialmente stiamo aumentando a livello di corposità uno dei 4 gruppi, ed è Generali, sicuramente il più grande. Allora, che cosa può accadere? Se questo è accaduto con quelli più piccoli, esattamente questo accadrà con quelli più grandi, e se non accadrà così ci sarà il riallineamento verso l'alto, perché questo permetterà di fare un'estrema selezione sulla base dei coefficienti di rischio di ogni singolo assicurato. C'è un'autorità che vigila però anche sul mercato, che probabilmente dovrà esprimere anche qualcosa rispetto a questa operazione e anche possibili rischi che si concretizzano sul mercato. Vedremo che cosa dirà. Eccoci ritrovati, oggi stiamo parlando di questa grande operazione che è stata annunciata all'inizio della settimana, dalla quale per la verità si parlava da qualche tempo, questo maxi riassetto e riorganizzazione interna del gruppo Generali che incorpora le già controllate Alleanza e Toro, quindi si crea all'interno il grande polo Vita Danni e diventa tutto insomma sotto il marchio Generali. Abbiamo cercato di capire dal punto di vista della borsa che cosa succederà ai piccoli azionisti di questi gruppi, perché Generali e Alleanza sono quotate, Toro non lo è più, e poi cerchiamo anche di capire per i consumatori cosa potrà cambiare per chi ha polizze di questi gruppi e che fino a questo momento evidentemente per questioni concorrenziali sono stati trattati come tariffe in maniera diversa. Adesso, radunando tutto sotto la stessa casa madre formalmente, che cosa potrà succedere? Abbiamo sentito appunto le perplessità, i dubbi, abbiamo fatto delle ipotesi con le associazioni dei consumatori, in particolar modo con Fabrizio Premuti di Adiconsum. Su questi punti volevo tornare però anche con Alessandro Pedone, responsabile ADUC per la tutela del risparmio, poi per le quotazioni in borsa ritorniamo con Tognoli anche su questi punti che ci stanno chiedendo alcuni ascoltatori. Tra l'altro, Pedone, ricordo il numero verde 800 24 00 24, continuate a prenotarvi. Il nostro panorama finanziario italiano negli ultimi anni, abbiamo visto grandi aggregazioni che hanno interessato soprattutto il comparto bancario, nel settore assicurativo non ci sono stati grandissimi movimenti, forse questa è l'operazione più importante degli ultimi tempi, ma insomma la nascita di un gigante come questo pone tutti i problemi che Premuti sollevava prima, è d'accordo? Ma diciamo che in linea di massima l'esperienza passata in queste fusioni non porta a vedere grandi vantaggi per i clienti di questi gruppi bancari, quindi si può concordare. Diciamo che non mi stupirei più di tanto e non vedo una grande modifica, delle grandi variazioni ai clienti del gruppo, anche perché qui stiamo parlando sostanzialmente sempre dello stesso gruppo bancario. Le differenze fra una linea e un'altra ci sono spesso anche all'interno degli stessi gruppi e diciamo che abbiano lo stesso nome, quindi il consiglio che darei è sempre il solito, cioè quello di fare particolare attenzione, e questo vale un po' per tutti, è generico come consiglio, me ne rendo conto, ma è effettivamente quello che bisogna fare. E l'accento che porrei più che altro è all'insistenza sul cross-selling, che spiego subito cosa significa, che verrà fatto, perché normalmente queste operazioni si fanno spesso anche, oltre che per i risparmi economici, anche per questa cosa, e cioè l'agente di Alleanza che va a proporre al cliente che prima era di Generali di comprare anche un prodotto finanziario o comunque anche altri prodotti. E questa cosa bisogna fare particolarmente attenzione, come sempre, quindi valutare bene bene le proposte e sottoscriverle solo se si ha la convinzione di averle capite fino in fondo. Giovanni da Firenze, per tornare agli aspetti di mercato con Antonio Tognoli. Giovanni, buongiorno. Buongiorno a lei. Io volevo sapere, per favore, Banca Generali come è collegata al discorso Generali Alleanza, a tutta questa operazione? È collegata. Non ho capito. Non ha capito. No, non l'abbiamo però citata per niente, Giovanni, per cui diciamo che Generali, Tognoli, mi aiuti lei, una società quotata del gruppo che però non è assolutamente coinvolta in questo riassetto. No, una cosa sono le assicurazioni generali, quindi stiamo parlando di assicurazioni Alleanza. Banca Generali è un'altra società, evidentemente controllata dal gruppo Generali, ma che fa tutt'altro, quindi non c'entra assolutamente nulla con questo tipo di operazione. Per cui gli azionisti appunto di questo gruppo possono stare tranquilli, lo possono stare anche gli altri, devono solo tenere in considerazione quello che sta accadendo, e quindi se hanno visto i titoli scivolare negli ultimi giorni, ci sono stati appunto atteggiamenti degli operatori che hanno portato ad allineare al concambio fissato per l'incorporazione i prezzi. Ritiene Tognoli che ci sia stato anche qualcosa di più, perché i titoli oggi si stanno riprendendo bene, però in qualche giornata hanno avuto una penalizzazione abbastanza forte. C'è stata anche l'altra grande discussione intorno a questa nazionalizzazione del gruppo assicurativo americano American Insurance Group, International Group. Crede che i titoli in questione abbiano risentito un po' anche di queste problematiche americane? Ma probabilmente sì, c'è da dire sicuramente una cosa però, che i gruppi americani, ma soprattutto gli investimenti dei gruppi americani e la vigilanza dei gruppi americani sono cosa completamente diversa, stiamo parlando non dal giorno alla notte ma dal giorno al giorno dopo, rispetto ai gruppi europei e italiani in particolare, dove ovviamente abbiamo l'ISVAP, ma soprattutto la gestione del portafoglio, che vuol dire se io do 2.000 o 1.000 euro tutti gli anni per costruirmi la polizza vita, la gestione di quei 1.000 euro in Italia è completamente diversa dalla gestione che avviene in America, quindi stiamo parlando veramente di due cose diverse. No, però perché abbiamo visto che quando sono andate molto male le banche americane, ovviamente in borsa tutte le banche europee, anche quelle italiane, ne risentivano, quindi per capire se in qualche modo ovviamente anche noi risentissimo di questa circostanza. Troppo si tende di fare un po' di tutto un erbo un fascio, stiamo parlando di assicurazioni, dice vabbè, assicurazioni, questi in più mi comunque propongono un'operazione straordinaria, i gestori ragionano in modo dicendo beh, sai cosa c'è, incomincia a vendere, poi vediamo, il poi vediamo lo vediamo oggi, in realtà facendo i conti poi magari qualcosina si ricomincia a comprare, quindi sicuramente in un mercato toro le cose sarebbero state prese immediatamente, i due titoli schizzavano e poi vediamo e magari scendevano dopo. Adesso l'isteria del mercato dice beh, sai cosa c'è, cominciamo a vendere e poi ci pensiamo, quindi diciamo il tutto va inquadrato in termini relativi in un momento di mercato specifico che stiamo vivendo. Ecco, tra l'altro molti ascoltatori stavano anche facendo una considerazione di altro genere, sempre mi riferisco ad azionisti di Alleanza che hanno in portafoglio questo titolo magari a prezzi molto più alti rispetto a quello attuale e prezzi che poi sono scesi ulteriormente in questi giorni, sia per effetto per reazione del mercato sull'andamento del, diciamo come allineamento all'andamento del settore generale, ma qualcuno appunto anche spiegato che c'è stato questo famoso allineamento al concambio fissato per l'incorporazione. È un caso secondo lei, Tognoli, che comunque l'operazione di incorporazione si sia scelto di farla in un momento come questo in cui le valutazioni dei titoli sono molto basse? È rilevante questo fatto? Cioè, è più conveniente farla in un momento come questo? Ma direi che cambia poco, nel senso che se si vanno poi a vedere non solo la media dei prezzi degli ultimi 3 o 6 mesi che hanno determinato il concambio, ma normalmente degli ultimi anni, dell'ultimo anno, 2 anni e 3 anni, si vede che i due prezzi sono sostanzialmente allineati. Sì, può essere 0,35 o 0,31, ma cioè, nella sostanza cambia poco, quindi voglio dire, è chiaro che se uno incarico i titoli Alleanza a molto più del prezzo rispetto a quello attuale, ma anche i titoli generali quotavano molto più alto, quindi il concambio non sarebbe stato sostanzialmente diverso. Il tutto, ancora una volta, va inquadrato nel momento particolare di mercato. E infatti. Allora, incredibile a dirsi, però vuole dirci la sua anche un dipendente di Alleanza che ci ha chiamato all'800240024. Colgo molto volentieri Giuseppe da Siena. Giuseppe, benvenuto. Buongiorno a voi. Ci dica. Niente, io volevo mettere così una considerazione dal lato del consumatore, dei dipendenti di Alleanza, che da questa questione forse il consumatore si può giovare della professionalità della rete Alleanza, che ha tutto l'interesse a conservare un rapporto di lungo periodo con il cliente nel ramo vita, già consolidato. Quindi lei dice, insomma, se io potrò vendere anche l'auto, che male c'è? Anzi, è un beneficio per il cliente, perché sicuramente non vado a vendergli un prodotto. Innanzitutto mi ha come consulente almeno 3 volte all'anno a casa e poi gli propongo sicuramente una soluzione che sarà interessante per lui, altrimenti non mi vado a compromettere il rapporto che ho di, magari noi abbiamo clienti che di terza generazione, nel senso che erano clienti nonni, figli, poi nipoti. Per cui in quella famiglia ci voglio stare. È un po' tipico bene, anche no? Delle assicurazioni che hanno una lunga tradizione nel nostro paese, quelle proprio di utilizzare ovviamente ancora un modello tradizionale di distribuzione, quindi avere il rapporto diretto con il cliente. Giuseppe, io la saluto perché la sentivo molto male, ma il nocciolo della questione le l'ho posto con grande chiarezza. Io lo giro, visto che aveva messo, non abbiamo più premuti, Valeria ci ha dovuto salutare, allora magari sento Alessandro Pedone sull'aspetto che ha sottolineato Giuseppe, perché tra l'altro su questo punto era andato anche lei prima. Attenzione al cross selling, però invece Giuseppe lo vede già subito come un'opportunità, è normale. Sì, diciamo il discorso di siccome io ho un rapporto di lungo periodo con il mio cliente, ho tutto l'interesse a fare i suoi interessi, francamente è una canzoncina che ho sentito un po' tante volte. Di sicuro ci sono le persone corrette, come in tutte le attività, che puntano ad un rapporto di medio-lungo termine. Ma magari Giuseppe insomma la vedeva anche in maniera positiva, visto che io adesso ho l'opportunità anche di vendere, perché abbiamo Toro, le polizze auto, magari riesco a proporre una condizione migliore rispetto alla polizza che il mio cliente ha già, gliela posso spuntare anche una condizione migliore, non ritiene? Ma diciamo, è ovvio che se ho più opportunità e se faccio bene il mio lavoro ho più possibilità di servire bene il mio cliente. Non sempre questo poi nell'attività quotidiana e nella realtà poi viene fatto, quindi io dal mio punto di vista il consiglio che do è sempre quello di guardare con attenzione e con un po' di diffidenza questa proposta, perché sicuramente ci sono le persone corrette che lavorano, ma la mia esperienza sarà anche che ovviamente ho un osservatorio dove vedo più i problemi, che quando le cose vanno bene non si rivolgono alle associazioni, quindi ho più un osservatorio critico, ecco, però da questo osservatorio quello che io dico è fate particolarmente attenzione, perché molto spesso la cosa brutta è che gli agenti, l'ultimo ramo di questa catena, diciamo l'ultimo anello di questa catena, molto spesso fanno le cose in perfetta buona fede, ma a loro volta sono... ricevono informazioni parziali o fuorvianti dalla loro catena e quindi sono convintissimi di fare al massimo l'interesse del proprio cliente, ma in realtà non lo stanno facendo, quindi i consumatori devono stare molto molto attenti a tutte le proposte che ricevono, soprattutto in questi settori dove c'è un po' di non grande trasparenza e anche difficoltà nel valutare le proposte, in modo particolare mi riferisco agli investimenti assicurativi, certo, che nella stragrande maggioranza sono prodotti inefficienti. Tra l'altro bisogna anche ricordare, invece magari rimanendo invece un po' più a ramo auto, che questo è un settore, noi tra l'altro vorremmo ritornarci anche la prossima settimana almeno un paio di volte a Salvadanaio, è quello nel quale il consumatore italiano fa molta resistenza a ricercare sul mercato qual è la migliore opzione per sé. C'è stato un grande incentivo alla concorrenza negli ultimi anni grazie al settore online, che ha dato una scrollata molto forte proponendo ovviamente delle tariffe molto più contenute, però ecco, quando dobbiamo cercare magari una polizza per la nostra auto migliore sul mercato, difficilmente abbandoniamo, lo facciamo volentieri il rapporto con il nostro venditore storico, per cui sicuramente anche le perplessità sollevate dall'Associazione dei Consumatori ci stanno tutte. Eccoci ritrovati in diretta e allora, tra l'altro, a quegli ascoltatori che chiedono qualche precisazione rispetto a quello che ho detto in apertura, cioè che in attesa della firma del decreto sui Tremonti Bond ieri le banche fossero andate bene, sì, c'è stato qualche caso totalmente contrario all'andamento generale di mercato, la BPM per esempio aveva chiuso piuttosto male, -5.5 punti, ma anche UbiBanca, che era cresciuta tanto negli ultimi giorni, è andata invece benino Intesa San Paolo, molto bene Mediolanum, per cui ieri alla fine si è manifestato un quadro contrastato, però in mattinata ieri le borse, sull'attesa della firma del decreto, erano partite piuttosto bene, con l'unica eccezione della Popolare di Milano. Quindi perdonatemi quando generalizzo un po' i discorsi, è chiaro che poi ci sono a volte anche delle eccezioni, comunque questo era quello che intendevo. Torniamo invece all'operazione di riassetto interno di Generali e tutte le considerazioni che vanno fatte per gli azionisti dei gruppi Generali e Alleanza, ma anche dal punto di vista dei consumatori. Torniamo ad Antonio Tognoli per gli aspetti di mercato con la domanda di Lino da Bologna. Lino, benvenuto. Buongiorno, io mi chiamo Rino da Bologna. Dino con la D di Debora? Sì, no, Rino con la R di Roma. Ah, ecco, proprio non abbiamo capito niente. No, Rino, Rino, benvenuto. Io volevo dire, prima di tutto, che per me come piccolo azionista, secondo me è una fregatura per l'azionista che passare dall'Alleanza alle Generali. Attenzione alle parole a mercato aperto, Rino. mi spiego. Secondo me il vantaggio era appunto di usufruire dell'alleanza come assicurazione vita, generalmente, non inserendo tutti e due il settore danni, quindi il settore vita e il settore danni. E comunque volevo chiedere solamente se quando entrerà in vigore questo scambio, diciamo, cioè se il piccolo azionista che possiede Alleanza riuscirà ad ottenere il dividendo ed eventualmente se c'è già un'idea di quanto sarà, di quanto possa essere. La ringrazio molto. Allora, Rino da Bologna, abbiamo scoperto con la R. Antonio Tognoli, mi può aiutare su questi aspetti adesso, al di là delle considerazioni che ha fatto Rino su quella che ritiene una fregatura, ma adesso a parte il termine utilizzato, diciamo che tra l'altro quando si è azionisti di una società quotata si deve anche, come dire, contemplare situazioni di questo tipo, magari poi con tutte le dovute considerazioni da fare se si è piccolo azionista, sicuramente si vive una situazione di asimmetria del mercato molto evidente sulla quale abbiamo avuto modo di soffermarci tante tante volte con Marco Liera di Plus 24. Detto questo, lui si preoccupa della politica di remunerazione. Non ho capito se della nuova società o di quelle vecchie. Di quelle vecchie, di quelle che ci sono ancora. Credo di Alleanza. Sì. Che cosa ne dice? La tempistica è che entro marzo 2009 i consigli di amministrazione dovrebbero approvare i progetti di fusione e nel luglio 2009 l'assemblea dovrebbe approvare, le rispettive assemblee dovrebbero approvare, quindi presumibilmente in quella sede verrà stabilito se pagare o meno il dividendo. Quindi ancora è troppo prematuro, è prematuro per dirlo. Generalmente queste due società come si sono comportate in quanto a dividendi agli azionisti in passato, Tognoli? Sono state generose? Direi di sì, hanno sempre pagato tranquillamente dividendo, quindi non hanno avuto, sia l'Alleanza erano quotate anche le Risparmio fino a un po' di tempo fa. Forse anche per far digerire questa riaggregazione magari ai nuovi azionisti. Potrebbe essere mantenuta una, insomma, politica interessante, quindi magari insomma un piccolo azionista potrebbe anche tenere in considerazione questo aspetto, non lo so. Sì, questo sì, direi che la cosa importante è che tendenzialmente se io aggrego due business diversi, quindi ne faccio due invece di uno, il mio rischio imprenditoriale diminuisce, non aumenta. Quindi se aggrego il ramo danni, che non è solo RC Auto, ma esistono 10 rami danni, e non è che sono tutti deficitari evidentemente, anzi, ma neanche il ramo danni, il ramo RC Auto è deficitario, in genere diminuisco il mio rischio imprenditoriale. Tra l'altro lo diminuisco anche nel momento in cui da 1 milione di clienti, 1,5 milioni, passo a 3 milioni di clienti con diverse altre possibilità di reti distributive. Che era l'aspetto che affrontavamo prima. Sì. Evidentemente poi sono aspettative, cosa fondamentale, i 200 milioni di risparmio, evidentemente sono delle aspettative che però si fondano su dati concreti della società. Il discorso fondamentale è secondo me da fare questo, non è che Generali o Alleanza o Toro o comunque il gruppo Generali, che ricordo è uno dei primi 3-4 gruppi più grossi al mondo, non è che lo è diventato perché ha, tra virgolette, fregato i propri clienti. Evidentemente. È che quando si è in diretta difficilmente si riescono a trovare al volo sinonimi diplomatici per intervenire, quindi vabbè, a parte questo termine, sì, la faccio concludere, Tognoli. Certo, assolutamente un gruppo molto, molto solido che evidentemente non ha nessun motivo se non evidentemente di fare profitto per sé e per i propri azionisti, ma evidentemente per fare questo, esattamente come tutte le società, sia di servizi sia industriali, come tutte le società quotate, deve tendere a offrire un prodotto di qualità assolutamente elevata, perché sul mercato ci sono altri competitors che si chiamano evidentemente tutte le altre compagnie, non solo italiane ma evidentemente europee. Quindi anche europee, esatto. Arben da Treviso, credo che la sua sarà l'ultima domanda di oggi, rapidissimo se ci riesce. Perfetto, sì, no, volevo chiedere adesso con il discorso defusione, sì. Io ho comprato delle azioni Alleanza e ho da avere in portafoglio verso i 12.000 euro al tempo quando l'ho comprato, adesso è dimezzato, vabbè. Volevo chiedere, con la fusione l'azione perderà il valore? E un'altra cosa, comprare Generali vale la pena? Cioè, noi non possiamo dirglielo, Arben. Adesso il tema che noi molto banalmente spieghiamo, insomma, il concambio, come funziona a mercato aperto, non ci potremo mai esprimere con suggerimenti di acquisto o vendita su titoli. Però Arben chiedeva appunto se con la fusione, appunto, il titolo Alleanza è possibile che perda ancora. Io credo che a questo punto sia allineato al concambio, Tognoli, con qualche piccola variazione. Sì, lo sarà sempre di più evidentemente allineato al concambio man mano che ci avviciniamo a marzo e a luglio, poi evidentemente, e a settembre quando i titoli Alleanza poi spariranno, lo sarà infatti sempre di più. Ecco, a settembre, tra l'altro, lei ci ha dato la data ultima, anzi dal 1 ottobre credo che sarà pienamente operativa l'aggregazione, per cui da quella data i titoli Alleanza scompariranno dal listino ma saranno praticamente inglobati in Generali. Io vi devo ringraziare, anzi vi ringrazio molto per essere stati con noi, Antonio Tognoli, Alessandro Pedone, Fabrizio Premuti di Aldiconsum, come ci ha lasciato prima. Grazie anche a Valeria Coffare, Gaia Romani per la collaborazione in redazione. Oggi Pietro Lacorte in assistenza tecnica. Soldi e dintorni, domani mattina alle 8:15 parliamo del cartello della pasta, quindi non mancate, mentre domani alle 12 ci ritroviamo con Salva Danaio. Buona giornata a tutti. Thank you.